sicuramente è un grandissimo campione, diciamo, ha avuto questo passaggio in Ducati dove ovviamente non si aspetta al meglio, però torna su una moto dove ci ha, diciamo, ci ha vinto e ci ha, e ha fatto appassionare, diciamo, tantissimi italiani, diciamo, vincendo tantissime gare. Che cosa ti aspetti da questo ritorno? Ecco, pensi che riuscirà a tornare il Valentino che conosciamo, oppure effettivamente tra carta d'identità e disabitudine al successo potrebbe essere un rientro, un ritorno a casa un po' più difficile? Sicuramente tornerà, tornerà competitivo e farà vedere, diciamo, che ancora può dire la sua in tantissime occasioni, quindi speriamo, anche perché, diciamo, un tifoso, essendo un tifoso suo, spero che torni, diciamo, ai vertici. Ma visto come sta andando, è lui che deve chiederti l'autografo, eh? Diciamo sì, ultimamente sta andando non benissimo, però, diciamo, se lo sappiamo tutti, diciamo, il campione che è, quindi tornerà sicuramente ai vertici, siamo sicuri.